però qui un giro di canali non ne ho fatto, ero fermo qua. Sì, c'era qualcosa in banda laterale sui canali alti, poi sui canali inglesi, l'FM c'era la stessa roba, soprattutto sul 19, che gli inglesi lo usano come canale, diciamo, per la barra mobile soprattutto, o canale di chiamata, dai. E poi anche qui sento voci di tutti i tipi, in AM, in FM, sui canali normali, capito? Io sto aspettando le 2:30 per fare queste lasagne, per cucinarle. Ero coricato sul divano qua, sdraiato, c'è un po' di fresco, devo dire. Cosa ti volevo dire? Vergoglio, confine di essere rimasto. È già la 1:30. No, ho detto 1:30, ho sbagliato, le 2:30, ma le 2:30 inizio a cucinarle. Ah, ecco, io ho già mangiato. Francesco, e adesso mi vado a fare un riposino perché qua. Ho ripreso, torna a farlo uscire. E sono dentro casa, ragazzi. Ci vuole dopo pranzo la pennichella, anche se dicono che bisognerebbe anzi camminare a stomaco pieno, camminare, e allora sì, non è periodo per camminare, c'è fresco ancora, per quanto la giornata oggi sia migliore, speravo che dall'alto arrivasse un invito ad andare in campagna, e invece niente, e mi sa allora che me ne starò a casa anche oggi, vediamo, o mi faccio un giro per conto mio dopo, ma dopo le giro. Ciao Natali, buona pennichella. Ok, va bene, ci sentiamo alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime allora Marco, un giro se lo fai dopo, al limite quando mi alzo già accendo e vedo un po' se ci sei. Ti mandi carabinieri, ti mando. Hai capito, quello bene? Ti faccio mangiare un brodino di mammo, ti faccio mangiare, eh? Hai capito, bello bene? Tu, per carità, mi fa vedere di mangiare. Sono a dieta. Sì, anche a dieta, se oggi è domenica. Sono a dieta, sì. 104 di glicemia. Glicemia. Sì, ciao Marco, sono dottore. 104, poi mancanza di ferro, eccetera, eccetera. Sto facendo l'analisi a controllare il perché e per come. Capito? Ho mangiato una pizzetta, mi sono collassato seduto nel tavolo, qua a casa, figurati. Ho capito. Vabbè Antonella, io sto andando a coricarmi, che non mi sento bene, sono tutto influenzato, già si sentirà dalla voce. Ci sentiamo un altro momento, dai. Ciao Natali, ci sentiamo alle prossime. Stiamo bene, buona pennichella. Avanti Marco. Sì, buona pennichella. Sentiamo quando capita. Ebbene Antone, anche tu casalingo, la glicemia cosa vuol dire 104? Cosa intendi? Che è bassa, che è alta? È alta, è alta. 104 in pratica, alta esattamente. Ah, 104, sì. Vabbè, un po', adesso non mi ricordo quanto è il minimo accettabile, non mi ricordo se era 90 o... Ma niente di che, mi Antonio, non è così, non credo sia così grave, non mi intendo del coso però. Fino a 120 è normale. Ah, fino a 120 è normale, allora Antonio non c'ha nulla la glicemia tua. Non c'ha nulla, no, se ce l'ha 104 ce l'ha bassa. Tipo come un... 1:04 comunque. Poi un bel po' di parametri che avevo, un po' alti, un po' bassi, hai capito? Perché ho già mangiato queste pizzette, non posso mangiare né pane né pizzette, quindi. E poi vabbè, a parte le paste, che quelle sono micidiali. Per adesso sto mangiando adesso, sto facendo la. Sto mangiando tonno, pesce, frutta, verdura, la mangiavo prima, capito? abbiamo trovato a carne, quindi è logico che mi hanno trovato colesterolo alto, eccetera, eccetera. Adesso già piano piano lo sto facendo abbassare. Se sei a dieta, niente birra, lo sai, sì, che la birra fa ingrassare pure. La birra per adesso bevendo solo una di tanto, ma una solo, no, 40 o 50, sono sceso di pancia anche, dal gas, capito, il gas che ti gonfia più che altro. Sì, Antonio, noti la modulazione normale, noti saturazione, anche minima? No, stai uscendo benissimo, chiaro, perfetto. Ah, ok, va bene, no, avevo l'aiutino, ogni tanto bisogna accenderlo, anche quello, farlo funzionare, sennò i condensatori si scaricano poi. Ah, vabbè, aiutino, già c'era anch'io qua a casa, ma non lo so neanche usando. Ho controllato, pensavo che i finali fossero bruciati, invece i finali non c'erano niente. C'è problema di pilotaggio più che altro, c'è qualche resistenza che è bruciata e all'interno e non mi pilota la lineare, capito? Perché i finali ho provato col tester, quando schiaccio portante l'attenzione me la dà tutti e quattro i finali in uscita. Sono quasi 40 volt, figurati. Ma un problema di pilotaggio inteso come ingresso, c'è qualcosa all'ingresso che è da mettere a posto? Infatti, siccome questo lineare qua quando l'ho preso c'aveva una resistenza, si capiva il valore, era 27 ohm, e siccome ne monta 4, non vorrei che magari avesse sbagliato le altre, che magari non fossero tutti uguali e fossero diverse. Adesso devo cercare su internet lo schema di questo, aspetta, si chiama, un po' caricato in mezzo ai coglioni qua, 1550 PS ZG, ed è 1987 a 24 volt. Ah, per camion quindi. E a casa lo puoi alimentare? Che è un casino, ci vuole un alimentatore un po' 24, boh. Non c'ho il BV2001, per quello è messo, capito? È infilato dentro al BV2001 questo lineare, in pratica. Buscami un lineare uguale, a 24 volt, infilacelo dentro, togliere il coperchio e collegargli l'alimentazione, accensione e spegnimento, poi c'è MSSB e i due fili del, come si chiama, collegati del wattmetro che c'è esterno, e sono a posto. Mi sono fatto lineare nuovo, non è che ci voglia questo granché a fare, devo staccare il vecchio e metterci il nuovo. Ah, ho capito, vero. In questi ZG moderni, lineari da base, dentro cosa c'è? Praticamente ci sarà sempre anche lì il solito B550, no? O giù di lì. C'è l'alimentazione e l'equivalente, la scheda, come lì. Questa è la scheda del 550, però in quello c'era Mario Manse che ha preciso, che aveva dato a, non mi ricordo, aveva dato a un tipo a riparare, che poi non gli aveva potuto tornato, montava il 750, capito? E dava più watt, dava. Yeah. Per esempio il BV2001, no? Che una volta era valvole, credo che adesso l'equivalente allo stato solido si chiami B2001, senza la V, V era per valvolare probabilmente. Certe volte qualcuno si è lamentato che ti danno l'alimentatore interno, è quasi risicato, cioè basta a malapena, proprio giusto alimentare il lineare, certe volte non basta nemmeno. No, io peccato, l'altra volta quando ho fatto la ricerca c'era uno che praticamente tecnico che si è lamentato, dice come mai, dice, questo qui è dato per la sovrimentazione, mi ricordo, se 30 ampere e i portafusibili sono da 5 ampere sono. E si è fatto i calcoli e non risultava, quindi in pratica era falsato. Se la sovrimento è 30 ampere, i portafusibili dovrebbero essere più grossi, non quelli piccolini, capito? Come scalda, quindi monta quei fusibili in vetro con i hai capito, quelli normali. Sì, sì. Tu pensa, tanti anni fa avevo prestato un marachino a qualcuno, di cui non ricordo manco il nome, sempre anni 80. Quando è ritornato, praticamente per puro caso l'ho scoperto, al posto del fusibile si erano rubati il fusibile e avevano messo un pezzo di stagnola al posto del fusibile. Io a che livelli? Per risparmiare, per non comprare il fusibile. Poi ho visto su Facebook, saranno da 15 o 20 apparecchi, 250 euro. E guarda, e ci sono anche parecchi portatili, un tipo 50 euro tutti quegli apparati, ce ne sono almeno da 15, da tutti 40 canali, ci sono addirittura i Midland. E via. Mi chiedevo, Antonè, il Maxcom 7, come quello che avevi tu, io ce l'ho tuttora, riceve normale, la modulazione non è più quella di una volta. Secondo te cosa c'è che non va lì? Qualche connessatore oppure tarature da fare? Perché io dentro non me lo ricordo nemmeno come è fatto. È degli anni 80, quindi dell'anno 3. Non so nemmeno se trovi eventuali componenti di ricambio. Cioè esce di radio, ma non è brillante, bello, limpido come era una volta. Allora, io ho avuto quello di Savenio qua a casa, te lo ricordo. L'ha provato in macchina sua e gli ho cambiato la capsula, gli ho cambiato la capsula che c'è dentro. In più gli ho aumentato il watt, e poi non vabbè, più di 4,5 non ti dà 4,5, quasi 5. L'LC, ma usciva molto più forte dell'altro portatile che c'aveva. Ha fatto la prova lui stesso in macchina, gli ha detto che esce molto più bene quel portatile che non esce quell'altro, dice, che ti sei preso come audio, parlo come audio, molto più squillante. Ecco, per esempio la LC si poteva anche tentare, vedere se migliorava qualcosa. No, perché è un peccato, mamma non vorrà venderlo, anche perché venderlo che esce male di radio non va bene, non si può vendere. Però se fosse uscito bene in radio me l'avrei usato più volentieri, diciamo, dai. Però vecchiotto come apparecchio, insomma. Comunque quando lo mettevo in macchina che tornavo dal mare, per esempio già all'altezza di uscendo da Porto Torres, andando verso Sassari, cominciava già a prendere un certo mantellino, è quello che è. Però già prima di ottava, no? Come esci dal fosso di Porto Torres, cominciavano già a rispondere da Sassari, dalle punti. Carino, c'ho la Sendisigari originale, la custodia è quasi nuova, la custodia porta batterie, te la ricordi, in cartone pressato, e dietro c'aveva quel porta pile da 1,5 con 10 posti, quindi diciamo se li metti quelle ricaricabili, 1,2 per 10, 12 volte, dai. Oppure li metti il ponticello e ne metti 8 anziché 10 di batterie. Comunque un bel portatile era. Anche la Intec l'aveva copiato, però all'epoca i canali erano ancora 23, quelli usabili in alto, no, a parte i canali sotto. E la Intec aveva fatto lo stesso apparecchio identico con 23 canali, te lo ricordi? Uguale al Maxcom, bianco. Sì, già me lo ricordo. diagnosato Balacchini, già lo sai, ho avuto anche il Maxon 7, con l'antennino che si mette sul supporto di metodo magnetico, oppure mettevi, lo stilo lo mettevi direttamente a portarsene, e poi ti devo chiamare il pacco batterie. Io mi ricordo addirittura quello di primo che ho avuto io, sono riuscito a fargli dare più watt, però naturalmente ci dovevi mettere le batterie di quelle come si deve, se no me le succhiavo a casa, hai capito? Sì, aspetta che ho tolto l'autoascolto per vedere se mi disturba. Ecco qua, sì, io l'avevo visto da te e ne ero rimasto innamorato di quel portatile lì, usciva anche con una modulazione bella squillante e l'avevamo preso nell'86 da Cine Radio, mi pare era costato credo 200 euro e guarda che per l'86 erano tanti 200 euro. Beh sì, un sacco di soldi erano. La verità, cazzo, questa nuova mi aspetta, in occasione di San Valentino consegneremo una scatola gratuita a casa tua, perché ha scritto San Valentino prima del 13 febbraio, 8.913, mi piace, aspetta, 61.602 hanno risposto. Ormai ti consegnano una scatola di spesa a casa. Ah, no, a San Valentino già non devo regalare niente a nessuna. Cappa. Ancora tutto ti volevo dire, boh. Non mi dico, mi è sfuggito di mente. Uno che ha scritto a dire meno, a mettere meno coglionate, gli ha scritto il tipo. Ormai ti mandano a casa una busta piena di spesa a casa, sarebbero stati tutti lì da stamattina come minimo lì con un foglietto scritto San Valentino. Ecco cosa ti volevo chiedere, se tu per necessità o per hobby dovessi scegliere un portatile della 27 da comprare, cosa prenderesti? Uno ce l'avrei, un Maio, si chiama Maio, 40 canali, c'ha l'antenna lunga un metro e qualche cosa, mi sembra che sono 1,10 m, 1,20 m, si possono mettere 10 batterie e in più c'aveva l'attacco del microfono, lo smitter e vedo pesanti, c'è la manopola da una parte dell'accensione, poi dall'altra c'è lo switch e al centro c'è quella dei canali, quello solo, guarda, quello è bello e portatile, quello lava un sacco di watt. Sì, quello con il telaio in alluminio. Io ho avuto il Dynacom 80, uguale, Dynacom 80, 80 canali, mi pare avesse dall'1 all'80. Io avevo il display canali frontale, attacco microfono a 4 poli, smitter, poi aveva l'attacco per alimentazione esterna, antenna esterna, forse anche cuffie. Bello, il più bel portatile, e poi un pirla l'ha bruciato, capito? Va bene, pazienza. No, ma io dico, degli apparecchi attuali, cioè dei portatili attuali, se tu per necessità o per hobby volessi comprarne uno, quale sceglieresti? Quello, perché quelli che stanno facendo noi fanno schifo. L'ho provato uno e non esce neanche a rocco. Tu vai a chiamare qualcuno, non ti risponde nessuno perché non ti sentono, date, capito? E poi, vabbè, si possono, l'unica cosa di bello è che si possono modificare tirando 200 canali e fruscia, solo che devi stare molto attento come lo fai, perché prima bisognava fare una specie di ponticello, quando andavi a chiudere l'apparecchio, siccome il pacco batterie c'era il cavo talmente fini, quando andavi a chiudere a volte ti si spezzava il cavetto. E quindi portati di genere non ho più preso. Ma se un bel portatile del 40 canali, ci sono quelli della Intec che sono buoni, quello con i LED, capito? Uno me l'ha rivelato tu, se ti ricordi bene. C'era il De Rossi, quello ci va benissimo. Ah, quel mattone, sì, sì, sì, me lo ricordo. Peccato, però io dico apparecchi attuali, purtroppo i portatili attuali per la 27 sono sempre quelli. C'è il Midland. Cosa c'è? C'è un President portatile che però è molto costoso anche. Poi cos'altro c'era? Che marche c'erano? Adesso non mi viene, comunque sono un po' simili, come sono tutti uguali quei portatili di adesso, capito? Salvo qualche piccola rifinitura, e non è che hai molta scelta, però il Midland gira è il meno peggio, dai. Demodulazione esce abbastanza chiaro, ce l'ha Secchi, un lupo grigio ce l'ha o ce l'aveva. Il problema è sempre l'antenna in un portatile, cioè finché lo usi per fare antennistica così, per parlare da su a giù, però poi l'antenna non rende niente. Allora lì sei costretto a prendere la famosa flex, antenna CB flex, che è lunga mi pare 50 o 60, sì, un po' ti migliora la situazione, però non sono mai come i portatili di una volta che avevano l'antenna da 1,20 m, 1,30 m. Quella era l'antenna, cazzo. Quella era l'antenna, sì, il problema è che ne toglievi gli occhi a qualcuno quando andavi a fare qualche, come ho fatto io, la cavalcata a Santa con un'antenna del genere. Vabbè, io avevo agganciato un barattino 40 canali, avevo messo una pipetta, ma non so la gente che quando camminavo, attento cazzo, se no mi stai cavando gli occhi, ma tu non ci posso fare niente, basta che ti metti in distanza, gli ho detto, cosa ci posso fare? Diciamo con l'antenna a stiletto caricata al centro, era lunga 1,20 m lo stesso. Sì, sì, sì. Poi erano belli anche sai quali, quei famosi portatili che avevamo preso noi da Scarpa nell'84, marcati Great, però c'erano anche di una marca conosciuta tipo Lafayette, avevano l'aspetto di radiotelefoni militari, erano color grigio con finiture nere, ed erano quarzati addirittura, 3 canali, 3 watt, e naturalmente lì potevi mettere solo l'alimentazione e l'antenna esterna, che era già comunque buono che ce l'avessero. E avevano l'antenna lo stesso 1,30 m e a metà altezza avevano quella specie di bobinetta che è la prima cosa che si è rotta, cioè come tu andavi a alzare l'antenna, sai cosa dovevi fare? Cosa che noi non sapevamo, dovevi tenere ferma la bobina e alzare il primo tratto dell'antenna, poi alzare la bobina tenendola al sotto e estendere tutta l'antenna, invece sai, facendo tutto in un unico passaggio, la bobina, ma senza tirarmi, senza stracciarne tutto, la sollevavi piano piano e si era staccata proprio la bobina, si era separata, il filamento era talmente sottile che cosa volevi aggiustare, non veniva bene, dai. Ah beh, quello sì, c'erano tanti modelli riportati, c'erano belli, c'erano anche brutti. Adesso però quelli che stanno facendo adesso non mi piacciono per niente, mi piacciono quelli medi, tipo quello che mi hai dato tu, poi il maglio che era pesante perché era in ferro, capito? E lì poteva agganciare il microfono amplificato addirittura, un microfono normale. C'era l'altra cosa dell'esterna, eccetera, eccetera, ce l'ho qui ancora, quel portatile, non l'ho buttato. Ce l'ho qua per pezzi, più che altro. Detto, se un giorno mi capita di trovarne uno, che magari c'era qualcuno che non se ne fa niente, che funziona, ve lo tengo solo per pezzi, perché c'è i finali buoni. L'unica cosa che era successo questo era il PLL, perché era stata fatta in versione di polizia, però i finali di trasmissione erano buoni, perfetti. poi ho lasciato da una parte la fanculo. L'ho conservato. Mi ricordo i quarzi da scarpa, 10.000 lire la coppia, che stiamo parlando prima metà anni 80, 10.000 lire a canale, capito? E mi pare di serie ti davano l'11, no? Era il canale dei portatili veri e propri CB. Invece sul 14 trovavi i famosi portatili giocattolo, quelli da 100 milliwatt, 50 milliwatt, quanti erano? Canale 14. Tanto tempo. Poi avevamo scoperto che invertendo i quarzi, mettendo quello della ricezione al posto della, insomma, invertendo i quarzi, no, tra ricezione e trasmissione, se ne andava sui canali di sotto il portatile. Il problema è che dopo poco tempo il quarzo si rovinava e non funzionava più il canale. Probabilmente era una cosa sbagliata che ne facevamo. Non so, ho fatto un paio, l'ho fatto un altro paio, capito? Se li invertivi si rovinavano. Ah, già ho capito. No, io non mi raccontavo i quarzi, quelli delle, come si chiama, l'apparecchio proprio intero, quello che c'aveva 200 canali della Intec. C'è la scheda dentro, non lo fa casa, dove c'è il pulsantino nel fianchetto, dove c'è scritto canale 19, quella la scheda l'ho lasciata. Se un giorno capita, controllo come piazzarlo e installo dentro qualche Intec 34 canali, roba così, intanto preciso, non cambia nulla. Quelli portatili cosa ho avuto? Di quelli di serie, diciamo, di una volta. Avevo avuto anche un Inno Hit 6 canali, 5 watt, che poi 5 magari non li dava. C'aveva le manopole frontali, mi pare cromate, e sempre frontalmente c'aveva un bello smitter a ventaglio. Mi ricordo, Inuit, 6 canali 5 watt, 6 canali naturalmente da quarzare, quarzato c'era solo il solito canale 11. E quello l'avevo venduto a un medico che se lo usava in barca, tra barche, no? Tra una barca e l'altra. Gli avevo venduto due portatili, uno era proprio l'Inuit, però lì non potevi mettere antenne esterne, era un po' un peccato, dai, per quello l'avevo venduto. Poi va bene, nel corso degli anni ho avuto anche quelli digitali, sai, i primi digitali della Intec, no? Con il display, i cristalli liquidi, le antenne corte, però la resa crollava in modo drammatico e la portata. Quello sì. Di solito tiravano fuori 3-4 watt quei portati. Uno avevo portato quasi a 10 watt di quei portati, so che non faceva più a mettere le batterie normali, no? Ci volevano batterie da 1200-1300 mAh. Guarda, mi ricordo ancora il nome, si chiamava, allora era un Intec Handicom 20LX, Handicom 20LX, mi ricordo che l'avevo anche bruciato quel portatile, mettendo portante a Paoletto. Io ci avevo voluto toccare 5.500 da campagna, allora venne Porto Torres, arrivavo tranquillamente al Magistero qua, mi sentiva bene, come si chiamava, Luisa, mi sentiva benissimo. Pure se lo fai adesso o qualche poco arrivi. Sì, infatti, guarda, quelle antennini di gomma caricati, non dico vanno bene, anche una parola grossa, diciamo, sono tollerabili se sei proprio in campo apertissimo, tipo se vai a San Francesco lì, zona aperta, se sei sul tetto di un palazzo, però se non vai a Lugo, è un peccato, vabbè. E poi anche altri di portatili, tipo quel mattone che ti avevo dato a te. Vedi, quello era semplice semplice, mi pare che c'aveva anche l'attacco per l'antenna esterna, vero? Con l'attacco RCA, o sbaglio? Sì, l'attacco RCA c'aveva. Sì, c'aveva. Già sta funzionando qua quella parecchia. L'avevo dato a Torino, l'avevo dato, è venuto qua, come l'ha visto, dice mi serve il portatile, me lo dai, e ho lì è, io ho detto, prendilo, e lo dava lui. Via. Allora, quel portatile, adesso ti dico la storia di quel portatile, e ti dico di questo Andy, tu hai detto Major, quella, il Dynacom, Dynacom 80 che avevo io, quello in alluminio, no? Quello era entrato in un certo laboratorio per fare una modifica. Purtroppo chi se ne occupava ha sbagliato, ha invertito i poli per un'operazione di ricarica, davanti a me ho visto uscire il fumo, tutto bruciato, ovviamente l'apparecchio acceso è tutto bruciato, insomma. E il titolare del negozio, non trovando lo stesso portatile in vendita sul mercato perché non si trovava più, mi aveva dato in sostituzione quello che ho dato a te qui, il mattone, quello con i LED, che comunque usciva discretamente, l'antenna era grande, l'ondulazione dopo tutto era un po', toni un po' bassi, però era passabile, dai, la ricezione era buona per un portatile. Oh, già esco, quel tipo di portatile escono bene, io ho provato la 4 di Conti, ho aperto la finestra e avevo fatto la prova e mi sentivi benissimo. Sì, non me ne ricordo più, nemmeno. Poi che altro? Boh, di altri non me ne ricordo altri portatili. Non ne ho avuto tantissimi, però. Sì, adesso, sai cos'è? Questi portatili di adesso, sì, l'antenna flex ti aiuta, però perché a catalogo non mi metti un'antenna da 1,20 m, 1,30 m, oppure appena più corta, anche un metro, però mi fai la bobina centrale in modo da, insomma, che sia elettricamente almeno un quarto d'onda, che ne so io, la bobina centrale, poi qualcuno si arrangia in altri modi, ti spiego. Col classico Midland portatile, cioè l'attacco BNC, no? Molti mettono l'adattatore da BNC a PL e mettono l'antenna veicolare tipo quelle da un metro, veicolare, come può essere, adesso non ti so fare paragone, un metro e mezzo, certo che non siano enormi come bobina, no? Quelle che reggono pochi watt, però almeno tu trasmetti e ti sentono con quelle antenne lì, capito? Sì, io non ricordo. Uno che ci ha messo su Facebook negli anni 80 e primi 90 si chattava così, ci ha messo un FM500S. No, 548, se mi sbaglio, aspetta. Sì, 548, sì. No, non ho capito, si metteva un 548 dove, come? Ah, questo, ha messo la fotografia del 548 di Six e ha scritto, negli anni 80 e 90 si chattava così. Sì, l'ho avuto anch'io quello. Allora, a te ti avevo dato il 500S, giusto? Però avevamo anche il 548 CX, che era grigio. E quello che avevo io era tenuto abbastanza bene e avevo il cavetto di alimentazione originale, la staffa originale, il microfono originale, che invece molti te lo danno senza staffa, senza il mic originale, i cavetti te le danno certi saldati dentro, no, anziché con la spina o comunque sia, dai, già hai capito, era tutto originale e in più avevamo comprato insieme, o quasi subito dopo, i kit 120 canali che ti davano, ti dico, di allora lo chassis, come dire, il coperchio sopra era predisposto, aveva quella piccola in cavo, no? Tu ci mettevi la placchetta, che è la serigrafia, no? 40 canali meno 40 più 40, e dentro ti davano la, praticamente la, il kit di modifica, no? La schedina con le viti, tutto per fissarlo dentro, i cavetti e tutto, e anche il selettore con la serigrafia. E bellino, bellino, dai. Certo, io li consideravo apparecchi terra terra, come può essere l'Alan 48, lo consideravo terra terra, un apparato splatter ne prendeva, abbattimento ne prendeva, però funzionava. Quando eri in macchina lontano dalle stazioni forti si poteva usare benissimo. Quello l'avevo venduto a 50 euro anni fa, mi vergognavo anche a chiedere 50 euro, lo sai. E guardati, lo so, e perché furono, c'è un RM 300 watt a 24 volt, 100 euro, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, peccato che devo pagarmi la moneta, se no me l'avevi preso, ci avevi fregato l'RM dentro, forse l'avevi staccato, quando te la dici avevi messo l'RM da 300 watt dentro. Ehi. E poi che altro? Boh. Vabbè, ne abbiamo avuto tanti apparati di la 27, mamma era abbastanza spendacciona. Mi abbiamo iniziato due portatili, quelli in marca Tigreat, no? Poi Marco Mandingo ci aveva regalato un 23 canale americano, che era quello che faceva un TVI terrificante, terrificante, o Antonè, usciva limpido, bello squillante, proprio la voce femminile, non ne parliamo, no? Ma faceva un TVI feroce, feroce, una cosa folle. Entrava anche nel cinema, nelle casse del cinema entrava, dell'Ariston, figurati. E ci aveva l'antenna proprio lì, punta. Che poi Marco Mandingo, diciamo, ce l'aveva in riparazione da Mario Ontari, no? E ha detto, guardate, io ne ho tanti, se vi pagate la riparazione, 30 euro, ve lo tenete. A me non mi date niente, ve lo tenete. Bella la ricezione, bella la trasmissione, però un TVI folle, una cosa proprio fuori misura. Poi da lì abbiamo cominciato, FM500S, il Max con il Multimode 3, e poi se tu ti ricordi quel Multimode 3, praticamente nuovissimo, l'avevamo rivenduto a te dopo un annetto, ti ricordi, costava 3,35 da Adriano, e te l'avevo venduto in pari 200 euro, te lo ricordi sto fatto? Sì, sì, già me lo ricordo, ma te lo usavo io molto detto, non mi ricordo che l'avevo dato, la verità, non me la metto più. No, scusa, però ho detto euro, costava 335.000 lire da Adriano, e te l'avevano dato 200.000 lire praticamente, l'avevano tenuto un anno, forse due, adesso non mi ricordo. Allora, era carino, a me piaceva come estetica, usciva tante clamme FMSB, il clarifier, il tune, il Roger Bip escludibile, la potenza anche abbassabile, però il battimento, se ti ricordi, cioè all'epoca che era pieno di CB, non riusciva a modulare, ti arrivavano certe bordate, c'è quel battimento zero che ti tirava giù i segnali. Sì, sì, già lo so. C'era voluto, e questo che stavo prendendo, solo che è per i Kemod, che è esibito con Kemod, sono cosa, Media Globe lo sta vendendo, 75 euro, il DSP, da agganciare all'esterno dell'apparato. Aspetta, poi cos'altro? Poi il Viking 2, il Viking 2, che poi certe volte noi avevamo due antenne all'epoca, avevamo sul tetto, anche se era basso il palazzo, eri praticamente in mezzo circondato dai palazzi, avevamo la Sigma GPVR, classica Grand Plane 3 radiali, un quarto d'onda. sentiva sua mamma per la sua camera, aveva la boomerang della Lemma attaccata al terrazzino dalla parte interna del palazzo, capito? Che puntava sul Cinamariston proprio. Quindi avevamo due antenne noi, almeno dopo, all'inizio prima una, poi due. Quindi Viking 2, preso da Adriano, 200 euro, 200.000 lire. Poi siamo passati dal multimode a quel samurai famoso che poi è con un 3009, no? Poi il 4000 ecco. Wow, ho perso il conto, Antonio, ho perso il conto. Poi abbiamo avuto anche baracchini comprati usati, tipo il Midland 150M, che era il predecessore del Midland 48. Non esisteva l'Alan 48. Quello era il predecessore, poi il 77/824, sempre 40 canali, bellino, manopole cromate, e poi ho perso il conto, non me ne ricordo altri, se ne abbiamo avuti così tanti io ho perso il conto. E me lo ricordo già quando me lo levate su da una parte e trovate dall'altra, lo stesso canale. Che me lo ricordo già, era da ridere. Ah, e poi dove la metti? L'Intec 3104 AF, che poi sì, abbiamo dato a te. Ti ricordi quella mezza base della Intec, insomma, a te te l'avevo dato, il 500S l'ho dato a te, la base Intec l'avevo dato a te, e il Viking 2 anche te l'avevo dato. E anche il 4000 ecco, vabbè, insomma, un po' di roba, poi ce l'abbiamo data perché non si usava, poi a lasciarli fermi si rovinano, avevano anche tanti anni quegli apparati. E già lo so, il 4000 ecco ancora qua, quello non si muove da qui, capito? C'è anche il 2009. Le cuffiette, ciao. Riesci a vedere? Siamo su 10. Ecco qua. Già funziona ancora, già funziona ancora. Sì, sì, già va. Sai che Paoletto sta sempre chiamando a casa, cioè non sempre, ma almeno una o due volte a settimana, e cerca sempre di me. Io no, lì non ci sono, no? Per carità, lui. Io ho capitato tra le sue grinfie, appena entrato e proprio c'aveva il radar lui, come sentiva che giovincelli teneri, ciu. Ah beh, è portatile, capace che già lo usa, ma io perché lo sento la zossa, ma con cane. L'unica cosa, lui andrebbe bene se piglia un portatile, quando va alla piazzetta col PMR, parla, qualcuno già gli risponderà. Lui, una volta che ho risposto, mi aveva detto che lui aveva provato anni fa a mettere l'antenna sul tetto, ma dice che li avevano stracciata, li avevano tirata giù dei CB, non so se di Sorso, di Sassari. Ma di Sassari è impossibile, magari di Sorso sono andato, ma magari aveva dato le palle a qualcuno e li hanno stracciato. Di Sassari proprio, che voi ci vada adesso sta cagliata la parte, non lo sentivi più per niente, perché sono da parecchi anni che non lo sento. Sì, ma se lui avesse, che ne so, una mezz'onda, la cincottavi sul tetto, magari a Sassari arriverebbe. Penso di sì, anche con i batte normali. È che la sorella è severa, non ne vuole sapere di queste cose, poi tutta l'incazzatura che si era preso negli anni precedenti. Guarda che in più occasioni ha rischiato l'ictus, per come l'ho sentito pensavo adesso muore, e poi lo dovevamo pagare per buono e per nuovo. già me lo ricordo, già. Cosa ridere, per carità. Mai avevo sentito una genere in casa, incazzarsi così, faceva questo, oggi muore, invece poi si calmava, l'umore ballerino ci aveva. Sì, ma si calmava, ma secondo me a casa gli davano le gocce, qualcosa di tecio per farlo calmare, perché poi sembrava proprio sedato, capito? Se non gli facevano l'iniezione pure, non lo so io. L'iniezione non lo so, però penso, magari le gocce gliele davano, perché quella volta che è entrata la madre si è picchiata con tutti, penso che gli abbia dato davvero le gocce. E più volte era entrata, me lo ricordo. Mi ricordo anche quella frase. Lei è semplicemente un piccolo delinquente. Sì, una volta ci aveva anche minacciato che ci voleva denunciare, se ti ricordi bene. Adesso prendo nome e cognomi, pare che carabinieri vi denuncio. Cazzo, non è una buca niente da cazzo. Allora, dico, signora, non lo faccia. È favoletto che si incazza. Sì, aveva detto una volta chiaramente a modo suo, no, con quella parlata, con la voce un po' lì fumava, no? E aveva detto, se succede qualcosa a Paolo, dice, che si sente male, dice, lo dico a tutti che sono stati lì GB a far morire mio figlio. Sì, è vero, io sì, aveva detto così, aveva detto. Anche lui baracchini ne ha avuto e poi lui, sai, stava bene anche economicamente, già ha cambiato, ne aveva uno con l'Econ per un periodo, ha avuto l'amplificato, bello quando schiattava con l'Eco, era un Eco tipo Maior, era spettacolare. Sì, già lo so, è l'Eco tipo Maior, sì. Ma lui è stato uno dei primi a utilizzare il 200 canali. Io l'ho avuto dopo tanto tempo, ho preso il multimode. Ma lui ce l'aveva già da prima, da minimo 3-4 anni. Un bel po' di canali erano Walter, Vittorio e altri 5-6. L'audio c'aveva l'apparecchio. Io ero con una specie di 40 canali, poi il presidente ci stava usando. Poi mi avevo comprato il multimode. Vabbè, mamma mia, ragazzi. Sentivo Giuseppe Velatre in tutti i canali. Anche perché Velatre lo stesso andava a delineare. Sai, all'epoca c'era le prove di forza, no? E dice, come attaccava lineare nel palazzo, a fianco si accendeva la luce al neon di notte. Tipo fantasmi. Minchia. Sì, Paoletto, mi ricordo che ha avuto, allora, del multimode non sono sicuro, però io ricordo dell'AM International, il Concorde 2, e lui lo chiama Concorde, no, non riusciva a dire la R, capito? Poi il Texas, Lafayette Texas, 40 canali MFM, lui lo chiamava il Texas, non riusciva a dire la X, Texas, il Texas. Sì, ne ha avuto un sacco di baracchini, Paoletto. Era sempre pieno di apparati, aveva due o tre, ogni tanto andava qualche CB e la gli offregava, non gli tornava più. Sì, vabbè, poi lo... certe volte lo... chi si faceva da 100 euro, poi lo mandava a fanculo, insomma, poi lui si lamentava, dice, ma cosa vuoi che ti do 100 euro? Ma io col cazzo che te ne do... A me quando mi dava 100 euro ritornavo in mezzo, te ricordi in pizzeria, facevo giusto giusto là, non 100 euro, 100.000 lire, andavo lì a mangiare la pizza in via Turatti, c'era poca gente che veniva a mangiare, tanto beveva la birra, non mi faceva un cazzo al Paoletto, beveva 2, 3, 4 bottiglie, non gli faceva manco sollecito. Oh, non accusava il colpo. Che strano. Forse c'aveva un assorbimento lento, oppure non saprei. Oppure era abituato a trincare. Magari era abituato a me. Cosa che io invece, se bevo due bicchieri di birra, pieni, finisco sotto il tavolo. Quei bicchieri di quel bar dove siamo andati l'ultima volta, no? Che sono belli alti, non è 0,20, quello è il doppio da 0,20. e così da. Ma poi mi ricordo una certa notte, lo stecchino nel campanello, e quando erano finiti i stecchini c'era entrato la netta in quel campanello. Che figli di puttana! E di tutto abbiamo fatto. Io ho portato di pane fatto di cazzo, cioè il cazzo fatto di pane. No, il cazzo fatto di pane. No, cos'è che hai detto prima? Il pane fatto di cazzo è più difficile. E allora, cazzo lo deve abbiamo dato. Lui, che bel regalo, guarda, porta tutta la casa, e te l'ha messo, se lo apre la madre ci ammazza. Però vedi, per fortuna nessuno gli ha mai messo le mani addosso, almeno se erano scherzi bonari, il pene di pane, il sombrero, quelle cose lì, ma anche la schiumata, non è che era schiuma di carnevale, non era roba nociva o tossica. E lui invece però raccontava certe volte cose ambigue, ma tipo quando ce l'aveva con l'uno o con l'altro, dice, soprattutto con una persona, diceva, ti ricordi quando ti sei spogliato nudo sotto il ponte Rosello? Dice, non te lo ricordi? Ah, e poi lo insultava. Adesso qualcuno ci ha tentato, mi, qualche abramizzo, ed era gente tipo latte dolce, mi, ma un po' gente ambigua. No, c'era un CB era, c'aveva 127, allora non c'era il ponte nuovo, abitava lì al monte, abitava, non mi ricordo adesso come si chiamava, la verità, c'aveva la lanterna, quella arancione, la colibri, montava nel fianchetto, ma non mi ricordo il nominativo. Ah, vabbè, no, Ponte Rosello, non so se ho detto Ponte Nuovo. Ed era due cose, una volta ha detto, ti ricordi quando ci siamo incontrati lì nell'erba? E poi sempre contro di quello diceva, ti ricordi quando sotto il Ponte Rosello si è spogliato nudo? Ha detto, ma qualcuno gli voleva fare l'allaccio. E infatti doveva stare molto attento a un chi usciva, gente che gli scoccava la pizza, però mandava, lo insultava, lo pigliava per il culo, lui accompagnandolo. Cioè, vabbè. La 27 non è mai stata, come dire, è sempre stata un po' con gente terra a terra, mi. Cioè, non vedevi mai. Cerca di capire, no? Usata molto dal masso popolino 1027, non c'era mai gente troppo. Vabbè, fa. Ah, gente seria. Sì, vabbè. Allora non c'era il telefono, avevamo il baracchino come divertimento, ma più che altro. Capito? La prassi era quella, divertirci e basta. O c'era quello che quando sentiva donne pigliava, partiva in macchina, andava a trovare casa sua, ma a tutti i costi voleva, capito? Poi non riusciva mai a fare nulla. Come volevo dire io, sì, già capito, non. Cioè, la gente è anche un po' acculturata di cosa che potremmo dire quasi il ceto sociale più alto, non sa molto 27. I più seri, quelli più seri, i CB diventavano un po' da amatori, facevano attività seria, non rimanevano in 27 che era una cionfra. Gente sapeva che patentino, c'era andato come un arrivatore. Soprattutto da quanti siamo pochi gatti siamo, e quindi la 27 non è neanche più calcolata, è come se non esiste, non è visto a studio aperto, non è che l'ha parlato dei CB o cosa, nulla, solamente gli animatori hanno parlato, sono 40.000. Per poter utilizzare quegli apparecchi lì bisogna prendere un patentino e studiare e basta. Della CB non ci ha parlato proprio niente, nulla. Ha detto cazzo, il CB non esistono più, a quanto sembra. Prima c'era la FCB, eccetera, eccetera, il SER, allora c'erano le associazioni, le cose valevano, adesso ormai sono tutti morti, capito? Maria. Sì, la 27 è stata una cosa passeggera, era l'unica alternativa al telefono che, non mi ricordo se le chiamate le pagavi a minuto o come era all'epoca, non me lo ricordo più, però parlavi a distanza, cioè era una cosa... Mi pare che in polacco praticamente il baracchino chiamano radiotelefono, cioè tradotto in italiano sarebbe radiotelefono, in base a come è scritto, no? E noi lo chiamiamo, vabbè, baracchino, apparato CB, insomma. Però poi, passato a quel periodo, come sono usciti internet, i computer e poi con i cellulari, è stato il colpo di grazia finale. Va bene. Poi non c'erano nemmeno pubblicità, cioè non era un prodotto di cui vedevi anche pubblicità in TV, era proprio un prodotto di nicchia, capite? Per pochi, o per quelli che lo volevano, insomma. E beh, quello sì. Ma... Pensavo che bene, il primo barattino l'hanno usato i carabinieri, più che altro. Se ti ricordi bene, negli anni 60, usavano la 27 i carabinieri, della Giulietta. Però anni 70 io ero bambino più piccolo, non so, io ero entrato proprio ad agosto, all'inizio, no agosto, all'inizio dell'estate dell'84, sì, col portatile, da dentro casa, tu immagina, infossato, cioè, vabbè, primo piano, però tutto palazzo intorno. L'avevo chiamato con quel portatile tre canali e Paoletto mi aveva sentito subito alla prima. Mi ascoltava bene, capito? Quelli erano portatili, porca miseria. Non questi idea, se adesso fanno. Non escono manco di watt, se vai a controllare te li vendono per 4 watt e poi li misuri e ti danno 2 watt. Miseri pure, non sono nemmeno 4 watt effettivi, capito? Ho detto, adesso quelli supportati che adesso parli col muro in pratica. Il discorso è quelli, ci vogliono quelli una volta, cioè quelli sì che ti sentivano, sentivano benissimo, facevi anche 10-15 km, li facevi anche con l'antenna, con l'antenna a filo, la voglia. Che sto dicendo da campagna via Reporto, perché già l'ho visto, dove ci sei anche caduto. Da lì, tranquillamente al Magistero, 9:10 arrivavo di segnale. Eh sì, quelle erano antenne, poi se eri in luoghi aperti con quelle antenne, non ne parliamo. Appunto c'era gente che bastava salire su, andare sul terrazzino, dipende poi a che piano eri, o sul terrazzo del palazzo e parlavi con i paesi limitrofi. E tante volte me l'hanno detto, tu col portatile bastava appena appena di spazio aperto e parlavi con i paesi intorno, Sosso, Porto Torres, che ne so, magari anche di più. Alghero magari no. Se ti ricordi bene c'era uno che per parlare con la ragazza era salito sopra l'albero con la portatile. No, non me lo ricordavo. E chi era? Il nome attivo non me lo ricordo, però mi ricordo di questo fatto qua. E io chiedo, ma dove stai parlando? Mi fa solo sopra l'albero di casa, nel giardino, ma dico. E tu dove tu devi essere impazzito? Io ho detto, eh sì, che se no non la sento, mi ha detto. come col cellulare, ti ricordi i primi cellulari che si cercava la posizione migliore, cercavano l'antennino anche estraibile, dovevi trovare la posizione migliore per ricevere meglio, quando i ponti magari non erano molto diffusi come adesso, no? Adesso vabbè, si trovi i ponti cellulari ogni 50 metri c'è il ripetitore cellulare. Che è successo? Adesso è tutto pieno di 5G, non è notato. Ogni tanto di, come ti posso dire, 100 metri di un'area, una cosa del genere, c'è un ripetitore. Qui a Carbonazzi c'è quello che c'ho di fronte, più ne hanno pensato uno in via, dove abita Claudio. Un ripetitore telefonico lì hanno messo in quel grattacielo. Ma dove abita? Dove abitava Claudio? A fianco proprio dove abitava Claudio. Sì, lì ci sono tutti quei quelle palazzine alte, quei grattacieli, adesso non so se poi si finisce in grattacieli, sì, tutta quella fila di palazzine alte che ci affacciano su via Milano, e quello è un bel punto anche. Lì ne imbatte un bel. E per i 5G più che altro, perché i 5G non è che abbiano molta potenza, però a quanto ho sentito ieri sera che è una data a contare il 5G, a quanto sembra si è lamentato, dice che quel negoziante della Vodafone ha detto, dice, tutti quelli che stanno venendo per comprarsi il telefonino 5G lo stanno modificando 4G, perché dice che la cosa allucinante non serve a nulla, ha detto. Nessuno è mai stato contento a quanto sembra del 5G, non so per il motivo, e quindi c'è un'applicazione, deve andare nel